Ok, ciao a tutte e tutti, grazie di essere qui per questa serata, questo incontro dal titolo Frontiere dentro e fuori l'Europa. Vi presentiamo brevemente. Ecco, prima di iniziare vi chiediamo una piccola accortezza, cioè di cercare di tenere sempre possibilmente la mascherina dentro lo spazio. E andiamo subito a, diciamo, entriamo subito nel vivo. E l'incontro di questa sera vede la partecipazione di Annalisa Camilli, giornalista internazionale esperta di migrazioni, che qui a Bug 61 abbiamo avuto il piacere di avere ospite qualche mese fa, anche per l'incontro organizzato dal Centro di Documentazione Francesco Lorusso e Carlo Giuliani sul G8 di Genova, e partecipa con noi a questo incontro. È con noi Alberto Di Monte Abo, del quale presentiamo il libro che ha pubblicato recentemente con l'editore Mursia, dal titolo Sentieri migranti, tracce che calpestano il confine, e parleremo con lui di questo suo libro. E abbiamo anche, ed è in qualche modo di casa, Michele Lapini, che negli ultimi 3 anni si è recato invece sulla frontiera fra la Bosnia e la Croazia, sostanzialmente, per documentare insieme a un altro fotogiornalista, Valerio Muscella, quanto avviene sul confine fra quello che è il possibile accesso all'Unione Europea e fuori, diciamo, e ci mostrerà alcune delle fotografie scattate quest'anno. E Mario di Diabasta Bologna, che insieme al Laboratorio di Salute Popolare esperienze nate dentro la BA, hanno organizzato il progetto Burn Health on the Move, che proprio in Bosnia hanno attivato già la scorsa estate e ripartiranno dall'inizio del 2022 con dei progetti di supporto ai migranti in attraversamento sulla frontiera, appunto, tra Bosnia e Croazia. Io sono Stefano, in questa veste per Zero in Condotta, ma attivista anche di Vox 61, con Zero in Condotta partecipiamo e promuoviamo l'incontro di oggi, perché abbiamo avuto appunto modo nel primo viaggio che fece Michele in Bosnia nel 2019 di vedere quanto accadeva appunto sul confine fra Bosnia e Croazia. Ma partiamo da Annalisa, che è collegata con noi. Grazie, ciao Annalisa, buonasera. Ciao, buonasera ciao. A tutti. Grazie di essere qui. Ti vorremmo chiedere, dato che cerchiamo di tenere aperto uno sguardo sulle diverse appunto frontiere dell'Europa, di dirci qualcosa rispetto a quanto sta accadendo invece sul confine fra Polonia e Bielorussia. E tu sei stata lì recentemente, hai scritto un reportage per l'Internazionale, giusto? E insomma, ti chiederemmo di darci qualche elemento su quanto sta accadendo, sapendo che comunque appunto anche la possibilità di documentare quanto avviene in Polonia è stata ampiamente, significativamente ristretta anche per i giornalisti, perché non è stato semplice in queste settimane poter dare un resoconto di quanto accadeva. Sì, buonasera a tutti. Io sono andata al confine tra Polonia e Bielorussia ormai un paio di settimane fa, forse di più, 3 settimane fa. In quel momento, forse vi ricorderete, delle carovane di migranti erano spinte dall'esercito bielorusso verso il confine polacco, un confine polacco che è blindato. I soldati bielorussi in quel momento aiutavano i profughi, aiutavano, non è la parola giusta, spingevano con la forza, tagliando le recinzioni, i profughi proprio contro l'esercito polacco che dal canto suo cercava di disorientare i profughi sparando lacrimogeni, usando delle luci laser per spaventarli, per disorientarli. Questo, diciamo, avveniva, avviene da quest'estate, dalla scorsa estate, dall'estate del 2021. Abbiamo cominciato appunto a raccogliere informazioni su questa nuova rotta da quest'estate e da subito è stato chiaro che il dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko stava usando i migranti, in particolare i rifugiati provenienti dal Kurdistan iracheno, dalla Siria, dalle zone vicino a Damasco da altre nazionalità, attraverso la Turchia stava concedendo e attraverso delle agenzie di viaggio legate alla compagnia di bandiera bielorussa, aerea bielorussa, stava concedendo visti a queste persone, promettendo loro nei paesi di origine, promettendo loro di arrivare in Europa. Queste persone pagavano quindi dai 2.000 ai 10.000 dollari per arrivare a Minsk, la capitale della Bielorussia, e poi per essere trasferiti, passare a Minsk qualche giorno negli alberghi di Stato, e poi trasferiti con dei pullman o con dei taxi fino al confine bielorusso, dove appunto gli stessi soldati bielorussi cercavano di farli attraversare il confine, sia con la Bielorussia che con la Lituania. Questa, diciamo, mossa serviva a Minsk in parte per fare pressione sull'Unione Europea, che dall'agosto del 2020 ha intrapreso delle sanzioni verso la Bielorussia dopo che è stato riconfermato Lukashenko a capo del paese, con però un giro di vite sull'opposizione, incarcerando circa 800 oppositori politici e appunto fatto, diciamo, mettendo una morsa sull'opposizione, tutti i dissidenti. L'Unione Europea aveva accettato delle sanzioni rispetto alla Bielorussia, aveva appunto imposto delle sanzioni alla Bielorussia e in parte, diciamo così, Lukashenko ha usato i migranti un po' come aveva fatto Erdogan nel 2020 per fare pressione sull'Unione Europea, usandoli come cose, come vere e proprie armi di quella che è stata definita una guerra a bassa intensità, anche per ridefinire, diciamo così, il ruolo rispetto alla Russia di Vladimir Putin, che nel frattempo, come sappiamo, sta facendo delle pressioni allo stesso tempo sull'Unione Europea, muovendo, diciamo così, il suo esercito verso l'Ucraina. Questa, diciamo, è la situazione geopolitica. Dall'altra parte, però, abbiamo un governo polacco che ha approfittato della situazione, costruendo, esattamente come ha fatto il governo ungherese nel 2015, una narrazione propagandistica su questa appunto guerra a bassa intensità. Ha descritto questa situazione come se la Polonia fosse appunto a rischio di un'invasione dello straniero, ha parlato di guerra santa, di difesa dei sacri confini della Polonia, chiaramente mobilitando dei fantasmi che in quel paese, diciamo, sono ancora vivi, si muovono appunto nell'inconscio collettivo, e tutto questo, diciamo, sulla pelle di queste persone, queste poi 3.000 persone nel momento in cui ero io, erano al confine tra le 2.000 e le 3.000 persone, in tutto dall'estate parliamo di 5.000 persone, quindi numeri risibili se pensiamo che in Italia nel picco dell'immigrazione intorno al 2014, 2015, 2016, 2.000 persone arrivavano in un solo weekend via mare dalla Libia o dalla Tunisia, ma in particolare dalla Libia, quindi diciamo numeri davvero ridicoli, no? Per pensiamo in generale ai flussi migratori nel mondo, ma in particolare insomma le capacità anche dell'Unione Europea, chiaramente anche la Polonia, il governo polacco ha approfittato di questa situazione, un governo che da sempre usa la retorica contro i migranti come uno dei suoi temi, diciamo, di propaganda, ha insistito moltissimo appunto su questa questione, ha dichiarato lo stato di emergenza la Polonia a settembre, ha definito una zona rossa a 3 chilometri dal confine, nella quale non possono entrare né organizzazioni umanitarie internazionali, né organizzazioni non governative, né giornalisti. Soltanto i residenti possono entrare in questa zona, e di fatto tutta l'accoglienza, diciamo così, tutta l'assistenza ai profughi che appunto tentano di attraversare questa frontiera e trovano dall'altra parte l'esercito polacco che li respinge fino a 20 volte in una maniera violenta. La Polonia ha anche emendato, cambiato la legge sull'asilo, rendendo possibili questi respingimenti, rendendo legali questi respingimenti che sono vietati dalla Convenzione di Ginevra del 1951, sono contrari a tutte le leggi fondamentali come la Carta Europea sui diritti fondamentali. Però, la Polonia tuttavia appunto a ottobre ha cambiato la sua legge sull'asilo per consentirli, e quindi le persone che vengono trovate a passare il confine vengono rimandate indietro. Di questo non c'è testimonianza diretta dei giornalisti, o meglio, i giornalisti riescono a entrare soltanto se si imbeddano, diciamo così, con gli attivisti, con i residenti. Cioè questa rete, diciamo, di attivisti, residenti, che si era attivata anni fa per difendere la foresta di Bielorussia, l'ultimo lembo della foresta vergine europea che copriva tutta l'Europa, la Siberia. Questa foresta anni fa è stata minacciata dal governo polacco, sempre il governo conservatore, il partito PiS, no? Voleva distruggere questa foresta per sfruttarla nelle miniere di carbone. All'epoca appunto si era costituita una rete di attivisti di opposizione polacca, oggi è quella stessa rete auto-organizzata che clandestinamente di fatto sta portando aiuti in questa zona appunto che è interdetta alle organizzazioni internazionali, alle organizzazioni umanitarie e agli stessi giornalisti. Quindi sono questi volontari che pattugliano questo bosco in cui i migranti rischiano di perdersi, si perdono di fatto con temperature che la notte scendono diversi gradi sotto lo zero, un momento dall'altro, quando sono andata io ancora non era nevicato, ma pochi giorni dopo ha cominciato anche a nevicare. Parliamo di una zona appunto molto fredda che è definita il polo nord della Polonia, e quindi queste persone si ritrovano di fatto catapultate con un viaggio sicuro da una parte fino quasi in Europa, e poi l'ultimo miglio per entrare in Europa diventa un incubo, un inferno, la parte più pericolosa del viaggio. Appunto, nella migliore delle ipotesi sono respinte in Bielorussia, un paese che appunto non è considerato sicuro, non garantisce appunto nemmeno ai suoi cittadini il rispetto dei diritti fondamentali, e nella peggiore delle ipotesi si perdono in questa foresta, passano diversi giorni a vagare in questa foresta, finiscono il cibo, finiscono l'acqua, si tratta spesso di famiglie con bambini molto piccoli, alcuni di loro finiscono in queste paludi, quindi rischiano di morire di freddo, e ci sono stati appunto diversi morti documentati, morti per il freddo di fatto. si teme appunto che i morti siano in realtà molti di più di quelli documentati, perché la foresta, il bosco è davvero grande e appunto è battuto da pochissime persone che, rischiando di essere incriminati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, stanno di fatto cercando di portare aiuto a queste persone, un sostegno appunto a queste persone che rischiano di morire nella foresta. Grazie di questo, di questa tua testimonianza. Ti chiederei, dato che l'anno scorso invece sei stata in Bosnia e anche lì hai avuto modo di raccontare quanto accadeva, allora proverei, se ti va, insomma, a tracciare qualche analogia e qualche differenza con queste due diverse frontiere. Cioè, da un lato vediamo una cosa in un qualche modo, come dire, non ancora, che non si era ancora mostrata in questi termini, cioè questo scontro politico, diciamo, internazionale, che si gioca sulla pelle dei migranti e che però appunto parliamo di sostanzialmente poche migliaia di persone usate in questa chiave, usate, diciamo, poi in un certo senso da entrambi i fronti. Dall'altro lato invece, per quanto riguarda la Bosnia, forse lì invece ci si trova davanti a una, come dire, da un lato appunto le nuove frontiere dell'Unione Europea, dall'altro un contesto di uno Stato che come dire, è talmente a bassa intensità che non riesce minimamente strutturare una politica migratoria delle persone che cercano di che in tante si trovano dentro i suoi confini e che cercano di muoversi verso l'Unione Europea. Quindi, se ci puoi, diciamo così, se ci puoi dire qualcosa anche rispetto alla Bosnia, dopo ne parleremo più approfondito, cioè, diciamo, entreremo più nel dettaglio, anche perché qui abbiamo avuto in qualche modo tutti modo di visitare il contesto, però se ci dici insomma qualcosa anche su quello e quali differenze, ecco, di quella frontiera rispetto a quella invece, come dire, che adesso è sotto i riflettori e che è quella fra Polonia e Bielorussia. Come dicevo, il governo polacco in questo momento sta sfruttando politicamente l'arrivo di queste poche migliaia di persone. La Polonia è un paese che per la prima volta conosce quello che invece in Europa appunto conosciamo da anni, e cioè l'arrivo di stranieri dal Medio Oriente o dall'Africa, dal Nord Africa. Quindi, da una parte si tratta di un fenomeno completamente nuovo per i polacchi, e che però viene strumentalizzato un po' come appunto dal governo ungherese nel 2015, viene strumentalizzato dal governo locale, che è un governo conservatore, che è in crisi di popolarità per la gestione del coronavirus, della pandemia, per l'inflazione che è a dei livelli molto alti, e che quindi, diciamo, sta usando questo tema dell'immigrazione per appunto attirare, spaventare i cittadini e concentrarsi nello propagandistico. Le linee di continuità con la Bosnia purtroppo sono quelle legate invece alle politiche di immigrazione di questi anni. In realtà l'unica strada intrapresa a partire dagli anni 90 dall'Unione Europea, dai paesi europei, è quella dell'esternalizzazione della frontiera, quindi fare accordi con paesi di origine e di transito per fermare il flusso di persone. Questa è stata l'unica strategia percorsa per gestire, tra virgolette, no, il fenomeno migratorio, un fenomeno strutturale delle società umane. Il risultato è che i governi di turno, i paesi extraeuropei, dalla Libia di Gheddafi alla Turchia di Erdogan, oggi la Bielorussia di Lukashenko, usano queste armi, però sono state messe nelle loro mani proprio dai governi europei. Le usano contro, come arma di ricatto appunto sui governi europei. La novità di questi, appunto, questa strategia di esternalizzazione era saltata un po' con le primavere arabe nel 2011, avevano gli sconvolgimenti, le rivoluzioni, poi diventate spesso guerre civili nel Nord Africa, nel Vicino Oriente, avevano reso possibile per l'Unione Europea tenere in piedi questi accordi di esternalizzazione, e quindi per un attimo, diciamo, si è aperta anche la speranza nell'opinione pubblica europea che fosse possibile rivisitare questa strategia. Invece abbiamo visto appunto dal 2015-2016 di nuovo percorrere, no, questa strada dell'esternalizzazione, gli accordi che l'Italia ha fatto con la Libia nel 2017 sono un po' emblematici. Che c'entra con la Bosnia? C'entra perché appunto oggi in Europa si respinge a tutte le frontiere, da Biac, che è la frontiera tra Bosnia e Croazia, alla frontiera appunto tra Polonia e Bielorussia, ma anche nel Mare Egeo, tra Grecia e Turchia, nel Mar Mediterraneo, nella rotta del Mediterraneo centrale, si rimandano le persone in Libia. Questa volta i respingimenti sono fatti per procura, cioè paghiamo la cosiddetta, il governo libico per finanziare questa cosiddetta guardia costiera libica per intercettare le persone e riportarle indietro. Si respinge alle Canarie, si respinge alla frontiera tra Italia e Francia. Quindi è un'Europa che in sostanza ha tradito principi fondamentali che l'hanno ispirata, e oggi, diciamo, la sua faccia più visibile sono appunto i manganelli della polizia croata usati contro ragazzini pakistani, afghani, quegli afghani che poi portiamo in Europa con i conti aerei, no, durante la presa di Kabul, subito dopo la presa di Kabul da parte dei Taliban. Sono gli stessi afghani minorenni che abbiamo visto, abbiamo raccontato tante volte a Biac morire di freddo nei palazzi abbandonati, con le ferite delle percosse, delle violenze subite dalla polizia croata. Le stesse ferite le ho ritrovate sulle gambe, sulle braccia degli uomini iracheni, delle donne irachene che ho incontrato in questo viaggio in Polonia, alcuni di loro che poi alla fine ce l'hanno fatta, e ce l'hanno fatta perché erano peggio degli altri, perché avevano riportato ferite più profonde e rischiavano di morire di freddo, no? In una strana economia per cui alla fine se ti salvi dalla morte puoi sperare di chiedere asilo in Europa. E questo, diciamo, in qualche modo ci dà l'immagine di quello che siamo, di quello che al di là dei proclami sulla nostra identità, sulle radici della nostra identità, è diventata l'Europa. Cioè, se c'è, diciamo, una politica comune oggi in Europa, è quella del respingimento, è quella della violenza che viene generata, tra l'altro spesso coordinata dall'Agenzia Europea per il Controllo Esterno delle Frontiere, Frontex, un'agenzia che ha ricevuto in questi anni milioni di euro e che li ha usati, su cui sono state aperte diverse indagini per frode, perché questi fondi sono stati usati spesso dai funzionari per fare feste, in sprechi, e questi stessi soldi poi sono serviti appunto per coordinare i respingimenti. Abbiamo visto immagini di imbarcazioni di profughi nel Mare Egeo che sono state fermate, distrutte dalla guardia di frontiera greca, appunto coordinata da Frontex. È Frontex che molto probabilmente dà le indicazioni alla guardia costiera libica per riportare in quell'inferno che era Libia, in quei centri di detenzione, le persone che provano ad attraversare il Mar Mediterraneo. Quindi la Bosnia, poi, come mi ricordavate, è un paese che oggi è sull'orlo di una guerra, è un paese che non ha mai affrontato le ferite, le difficoltà della risoluzione dell'ex-Jugoslavia, è un paese che ancora oggi è uno dei paesi con il più alto tasso di emigrazione, quindi in cui ancora le persone continuano ad andare via da quel posto perché è uno dei paesi più poveri appunto extraeuropei, anche se sta provando appunto ad entrare nell'Unione Europea, ma assolutamente diciamo ha dei tassi di povertà, di disoccupazione che fanno sì che anche le poche persone, parliamo anche in quel caso di qualche migliaio di persone che ogni anno provano ad attraversare la rotta balcanica dal 2015, da quando Orban ha costruito quel muro, no? Fine con la Serbia, quelle poche migliaia di persone in Bosnia sono diventate un problema enorme, perché chiaramente sono diventate un capo espiatorio, no? Soprattutto in questi paesi, Biac, che è un posto che io e Michele conosciamo, in cui siamo andati spesso, è stato uno dei paesi che durante la guerra dell'ex Jugoslavia è stato sotto assedio per 2 anni, quindi si ricorda benissimo la guerra, e quindi inizialmente porta appunto ancora tutte le ferite, è un paese da cui ogni anno un sacco di ragazzi se ne vanno per cercare fortuna altrove, e qui diciamo l'arrivo di queste poche migliaia di persone, soprattutto dall'Afghanistan e dal Pakistan, se all'inizio, come spesso insomma è successo in questi anni, ha suscitato una certa empatia nelle persone che si ricordavano ancora di essere stati dei profughi, oggi queste persone vengono maltrattate, stigmatizzate, marginalizzate proprio da queste cittadine polacche, da queste cittadine bosniache, dagli abitanti di queste cittadine bosniache, che cercano di tenerli il più lontano possibile dai centri abitati, che li usano appunto come capri espiatori di tutti i loro problemi, ecco. Li accusano di furti, di stupri, questi meccanismi che abbiamo visto molto spesso anche nelle nostre città. Bene, ti ringraziamo molto anche per questo ulteriore approfondimento. E non so, se eventualmente ci devi diciamo salutare, diccelo, comunque siamo qui, se vuoi invece intervenire siamo qui, grazie tante intanto di questo, di questi interventi. Partirei da grazie. Partirei proprio da quello, da un tema che toccava Annalisa poco fa, per agganciarsi in qualche modo e cominciare a parlare un attimo del libro di Abo, e parlavi del tradimento, parlava Annalisa del tradimento dei principi su cui questa unione dovrebbe fondarsi, no? E diciamo utilizzerei questo passaggio per entrare un attimo nel libro, perché Alberto ci insomma nei primi capitoli tiene un fuoco molto interessante sul tema proprio della emigrazione, diciamo in questo libro si parla di frontiere che danno sull'Italia, di sentieri di frontiera dall'Italia e fuori, insomma sul confine italiani, e c'è un focus interessante diciamo sul movimento migratorio dall'Italia nel corso dell'ultimo secolo, ma sostanzialmente dall'unità d'Italia e poi, ecco. E dice Abo, dice, dagli anni 70 cosa avviene? L'Italia cambia, diciamo il saldo migratorio comincia a diventare positivo, cioè per la prima volta l'Italia diventa un paese che accoglie più che diciamo invece perdere tra virgolette insomma cittadini nati nel paese, no? E mi è parso molto interessante e il fatto che tu tenga questo diciamo questa lente su questo tema, perché come dire si supporrebbe che un paese che passa dall'avere una emigrazione molto consistente verso i vari angoli del mondo, nel momento in cui invece ha questo saldo positivo, per cui sono più le persone che vengono in quel paese piuttosto che quelle che se ne vanno, non se ne fa neanche lontanamente vanto in qualche modo, e questo è, insomma, secondo me è in una certa misura anche questo un tradimento di, come dire, di una spinta fondativa, no? E invece appunto questo non è completamente, non ha nessuno spazio nel discorso pubblico sulle migrazioni, questo tema. Allora ti chiederei, insomma, se ci vuoi raccontare un po' come nasce questo tuo saggio, diciamo, che appunto prende cinque sentieri, no, sui confini italiani, e quindi ti chiederei se ci spieghi un po' come l'hai figurato. È molto interessante, alla fine di ogni sentiero spieghi come percorrerlo, cioè da dove si parte, dove si arriva, e insomma è un approccio interessante. Beh, intanto un benvenuto a tutte e tutti, un ringraziamento al VAG, a Michele, a Annalisa e Ape Bologna col banchetto. Sì, uno dei capitoletti introduttivi del libro è dedicato alla dicotomia tra il cervello in fuga e il migrante economico, che sono due figure sociali estremamente simili, sostanzialmente di solito sono giovani, maschi, di belle speranze, figure considerate pioniere, quindi che trovano spazio come le piante pioniere in luoghi magari un po' inospitali perché differenti da quello elettivo, e sondano il terreno per capire se c'è spazio per portare poi qualcun altro. E il nostro razzismo culturale, più o meno consapevole, ci consente di tollerare questo tipo di narrazioni assolutamente differenti tra il giovane italiano di belle speranze che, non trovando qui in un paese, come dire, chiuso, ostile, indisponibile al cambiamento, poco coraggioso e via discorrendo, non trova la possibilità che meriterebbe, quindi è costretto, poverino, a scappare all'estero, e invece il migrante economico, che è assolutamente simile, ma non avendo i documenti in regola per sostare sul nostro territorio, viene trattato come qualcuno che, nonostante non abbia diritto alla protezione internazionale, all'asilo politico, neanche alla protezione umanitaria recentemente abolita, cioè nonostante non sia a rischio immediato, individuale, soggettivo della vita, comunque pretende in qualche misura qualcosa. E comprendere questa dicotomia è fondamentale per comprendere come all'interno di un sistema pur complesso e articolato con luci ed ombre, che è quello che va dalla soccorso, accoglienza, protezione, ma che poi, come dire, vive anche di dispositivi di controllo, cattura, respingimento, è assolutamente chiave per comprendere tutto il corridoio obbligato che spesso le persone migranti devono fare in un processo di domesticazione, ospedalizzazione, custodia, per cui anche quando non sono all'interno di strutture di vera e propria detenzione, anche se ufficialmente non lo sono, come i CPR, già CIE, già CPT, sostanzialmente vengono medicalizzati nel tentativo di costruire una persona docile, e quindi, diciamo, il cosiddetto soggetto indebitato. Cioè, la figura migrante è una figura che, nella misura in cui viene accolta, in dipendenza di quella che è la casella in cui lo andiamo a inserire nel grande mosaico del sistema di accoglienza, nasce già come soggetto indebitato, cioè come soggetto che in qualche misura deve restituire qualcosa attraverso un adeguamento culturale, linguistico, attraverso una disponibilità a quel lavoro non retribuito che qualcuno si ostina a chiamare volontariato, attraverso forme di perdita della propria autonomia, quindi non puoi uscire la sera a cucinare, avere una vita sociale, vivere all'interno di un contesto di relazioni, ma spesso viene marginalizzato in strutture che sia nelle grandi città, ma tanto più nelle comunità montane, nelle terre interne, e via discorrendo, sono dei generatori automatici di conflitti, di incomprensioni, di tutti quei problemi, insomma, che agevolano la trasmissione della paura, della diffidenza, della costruzione del noi e loro. Per arrivare a questa cosa qui, che appunto è uno dei temi, diciamo, della prima sezione di questo breve volume, che non è una narrazione, non è neanche un saggio in senso stretto, ma un oggetto, diciamo, non identificato, per copiare qualcun altro, io partirei un po' prima, intanto perché ho il vizio poi di raccontare tutto il libro per nessuno se lo legge, ma anche perché questo libro viene in conclusione, diciamo, di una tetralogia di 4 volumi apparentemente sconnessi. Quindi partirei con le cose semplici, cioè il titolo Sentieri Migranti, perché il primo testo che avevo fatto, che è proprio quello sulla, per Murcia Editore, che è quello sulla storia dell'associazione Proletari Escursionisti, si chiamava Sentieri Proletari. Ora, senza precipitare e far collassare il tutto dentro il Novecento, l'8-Novecento del proletariato, della classe, e gli anni 2000 invece della condizione migrante, però è chiaro che volevo provare a suggerire che oggi la condizione migrante intesa nel suo muovere, nella sua viandanza, e con essa lo spazio della frontiera, che poi di cui il confine è solo l'aspetto più deteriore, più visibile, certamente sono due luoghi in cui noi possiamo riconoscere, tipo cartina al tornasole quando andavamo a scuola, il grado di maturità di una civiltà. Diciamo, è uno spazio adeguato per misurare dove siamo e chi siamo. E dall'altra parte il sottotitolo invece, che è Tracce che calpestano il confine, nasce proprio da un'iniziativa fatta con APE, con l'Associazione Proletari Escursionisti, nel febbraio o marzo, non mi ricordo, del 2018. Siamo nella stagione della bolla di Ventimiglia. Ventimiglia è anche il primo in senso orario dei 5 itinerari che ho proposto lungo l'arco alpino. Per essere sinceri, non ci sono spoiler in questi libri. Cioè tutte le storie più straordinarie, le persone più squisite, i sentieri più incredibili che mi è capitato di conoscere, adocchiare, farmi raccontare, non ci sono nel libro, perché il libro è uno strumento, così come è una scusa per portare in giro queste discussioni, ed è uno strumento che chiaramente può veicolare incontro, confronto, ma deve anche tutelare chi è sul cammino. Quindi tutto quello che, di cui non avete mai sentito parlare, qua dentro non c'è, non ci sono spoiler. Ci sono però dei trick, dei consigli, delle suggestioni, insomma, che si possono rincorrere, anche di carattere operativo. Dentro la bolla di Ventimiglia, appunto nell'inverno del 2018, il CAZ, Collettivo Alpino Zapatista di Genova, 20K e l'APE promuovono un altro oggetto non identificato, che non è una manifestazione e non è un'escursione, dal titolo Calpestiamo il confine. L'idea era di ripercorrere da Grimaldi Superiore, l'ultima dei borghi dell'Interland di Ventimiglia, subito prima di quel panettone di calcare che è la Giralda, e dopo c'è il Menton Garavan, la zona di Nizza e via discorrendo. Ecco, lungo quel confine, lungo il sentiero che storicamente facevano spalloni, passeur, commercianti, e poi la comunità ebraica in fuga dalle leggi razziali, e poi gli esuli antifascisti, e poi i kosovari negli anni 90, e poi la diaspora dell'ex Jugoslavia, e oggi ovviamente dalle primavere arabe in poi tutto quanto che sappiamo, su quel luogo si stava e ancora oggi si misura appunto due tipi di esercizi. Da una parte chi supporta in maniera attiva le persone migranti che stanno fuori dal sistema istituzionale di accoglienza, perché specialmente nella sua chiave emergenziale, i campi della Croce Rossa è un sistema di cattura delle impronte digitali, che all'interno del progetto di integrazione europea è anche il meccanismo funge da meccanismo di restituzione al primo paese d'accoglienza persone non soggette a ospitalità di lungo termine, ma soprattutto è un luogo in cui in maniera estremamente semplice, d'impatto, volevamo mostrare a 150 persone che hanno raccolto l'appello, poi c'erano anche gli elicotteri, i gendarmi, insomma la cosa è stata un filo più articolata di come ve la sto dicendo, ma sostanzialmente è il luogo in cui, così come le persone che provenivano dalla Valle dell'Arancia, dei Mandarini, si dice un po' più al nord, nelle Alte Alpi, cioè così come i Terroni, gente come la mia famiglia che viene dalla Puglia, negli anni 50 e 60 copiosamente sciamavano in cerca di reddito in direzione della Francia, e si stima che nel secondo dopoguerra siano morti almeno 150 migranti, in quel caso italiani, su quel panettone di calcare, che non è una rotta alpina, sta a 200 metri dai Balzi Rossi, per chi si ricorda le cronache di qualche anno fa, del presidio permanente no border e via discorrendo. Ancora oggi, a partire appunto dall'inizio delle primavere arabe, quindi dal 2011-2012 in poi, almeno una ventina di persone hanno perso la vita. Il contesto in cui hanno perso la vita è un sentiero che normalmente, in condizioni diciamo di media preparazione da escursionisti, si fa in un'ora e mezza di giorno, poco dislivello, estremamente semplice, c'è acqua lungo il percorso, il sentiero si nota. A un certo punto, arrivati sul crinale, in cui c'è un buco, e c'è sempre questo buco, c'è da sempre e ci sarà sempre probabilmente, nella rete metallica arrugginita, i cespugli, la roccia, lo sfasciume, ti sembra dare l'impressione che il sentiero tiri dritto. E subito dopo c'è il baratro. Questo incidente che si reitera per 70 anni, almeno da 70 anni lo registriamo, probabilmente da prima del tempo storico, credo che sia uno delle istantanee, delle cartoline più chiare per segnalare due posture possibili. Quella di chi, pur non essendo il militante, l'attivista, come dire, il no border stellato, quindi chi semplicemente attraversa quello spazio e lo fa, non dico immedesimandosi, perché, come dire, immedesimarsi con i documenti in tasca è sempre difficile, ma rinunciando, togliendo qualcosa, togliendo un po' di GPS, un po' di Gore-Tex, un po' di insomma, tutta quella roba che ci serve per stare bene nella nostra attività più o meno sportiva, tra chi nel fare il gesto del camminare pone dei segnali universali, colori, frecce, corde fisse dove il sentiero viene dilavato dall'acqua, e chi si rifiuta da 70 anni di porre una banale croce d'acciaio di Sant'Andrea per dire questa pista uguale morte. Il fatto che questi segnali vengano apposti e continuamente tolti, sia dalle istituzioni sia da gruppi, quello più noto è stato per qualche anno Generazione Identiter, in ambito europeo diciamo, più che in Italia, ma sicuramente sul lato francese tra gli altri, il fatto che questo confine non sia stato protetto e a 100 metri ci sono i paramassi per la provinciale di Menton-Garavan, come dire, era il luogo, anche se distante da Milano, più semplice in cui far notare, come dire, appunto, in cui evidenziare una forma di puro razzismo istituzionale e culturale. Allora, lì dentro comincia un viaggio che attraversa appunto le Alte Alpi, come le chiamano i francesi, il dipartimento si chiama così, quindi quella zona che va da Claviere, Monginevro, Bardonecchia, Colle della Scala, e poi in direzione di un tragitto che non è un sentiero, non lo è mai un sentiero, però è una trama assolutamente stracciata che va tra Como e Varese in direzione del Canton Ticino, ancora al Brennero, fino al Carso Triestino, che sono cinque tra le rotte migranti, in verità una in ingresso ovviamente, la Val Rosandra e il Carso, tutte le altre sono in fuga dall'Italia, e servivano a segnalare una banalità a cui non pensiamo mai, cioè che il confine della patria o la frontiera della matria nella versione diciamo desiderabile è un confine tendenzialmente marittimo, e laddove è un confine terrestre è un confine alpino e prealpino. Adesso la Val Rosandra effettivamente ha quote molto basse, si passa qua, l'altipiano sta sui 400 metri, e così anche nel Varesotto c'è qualcosa di simile nei pressi tra Como e Varese. Ma per il resto è un confine alpino che porta con sé tutte le complicazioni dell'andare in un luogo in cui non di cui non condividi la lingua, la capacità di orientamento, chiaramente l'abbigliamento e l'attrezzatura, cioè sostanzialmente tutti i fattori che permettono di vivere con piacere l'andare in montagna. Prima di tutto questo, per dire qualcosa che non c'è nel libro, lo sguardo sociale che noi proiettiamo sull'arco alpino, cioè il fatto che noi quando guardiamo le montagne, anche chi non ci va, dico, anche chi non ha di queste passioni come me, però quando guarda le montagne, si fa la gita, cosa pensa? Bellezza, svago, pace, ristoro, lentezza, natura, come sto bene, e via discorrendo. Tutta questa cosa qua non è che è sempre esistita, ma è figlia di una peculiare stagione che nasce simbolicamente nell'agosto del 1786, quando per la prima volta Balmain e Paccard, cioè un mineralogo e un medico condotto, su spinta di De Saussure scalano il Monte Bianco, mettono la bandiera, è la vetta più alta, allora si pensava dell'Europa, in realtà è la vetta più alta dell'arco alpino, e quella è la data in cui nasce l'alpinismo. Prima di questa data, di lì a poco nasceranno le guide alpine, poi il CAI, poi tutte le varie, la storia dell'escursionismo e dell'alpinismo contemporaneo. Prima di questo era la linea dei boschi a determinare il punto di separazione tra il lecito e l'illecito. Era lì il confine era un confine, tra virgolette, altimetrico, cioè tra lo spazio vivo, quello in cui l'uomo ha la possibilità di scaldarsi, procacciarsi la selvaggina, mangiare, costruire ricoveri, trovare riparo, e poi ciò che sta oltre, cioè gli Appennini, si chiamano così perché ci abitava il dio Pen. Con l'esclusione degli spiritualisti, o comunque di personaggi diciamo stravaganti, tipo, per chi conosce la Val Susa, Bonifacio Rotario d'Asti, che a metà del 1300 scala il Rocciamelone, che è il 3500, o i Petrarca, i Leonardo da Vinci, tutti questi personaggi incredibili, sopra la linea dei boschi chi andava? Andavano i cacciatori di Frodo, andavano appunto chi si occupava di import-export, e ancora oggi si occupa di import-export a livello diciamo non necessariamente legale, cioè chi doveva rompere la regola recandosi dove non potevano non subire disturbi. È soltanto con la costruzione di quelle che oggi definiremmo le grandi opere, cioè delle moderne vie di trasporto, che i valichi, i giochi, i passi vengono abbandonati, perché via via il transito sia commerciale che di corpi, stradale, autostradale e ferroviario, comincia a bucare le montagne o comunque a bonificare le valli. Prima troppo in basso non vai perché le bestie si bagnano, si ammalano, troppo in alto non vai perché il freddo non c'è riparo, ti tenevi a mezza costa. Con questo off topic cosa voglio dire? Che noi, i nostri occhi sono tarati dal fatto, per fortuna e purtroppo, dal fatto di vivere in questo tempo, e oggi per noi, specialmente per noi che siamo cittadini, quello è uno spazio di evasione che ci consente di essere diversi da come siamo nelle relazioni urbane, quindi anche con i nostri affetti ci sentiamo migliori e cerchiamo di stare meglio e siamo più disponibili, e quello è il nostro momento di stacco. Per nessun altro è stato così nella storia, e non ci sono solo queste due posture, ma in ciascuna stagione, e chiaramente ciascun luogo ha avuto la sua stagione, le motivazioni che spingevano al transito, alla viandanza, hanno fatto la percezione del luogo. Quando era uno spazio in cui si sfidavano gli dèi, quando era uno spazio in cui si sfidavano i gendarmi, quando era uno spazio in cui che permetteva, come nella bagna cauda piemontese, di avere una io sono vegetariano, però diciamo di avere una gastronomia di mare dentro invece una terra cuneese, quindi dentro il profondo interno del Piemonte, quindi uno sguardo fatto di scambi, di baratto, di commercio. Se voi pensate a Ötzi, l'uomo di Similaun, attraversava ghiacciai 3-4 mila anni fa, l'uomo di Mondeval 11 mila anni fa. Noi non ci spingiamo così indietro, ma è importante sapere che lo sguardo che noi proiettiamo oggi su queste montagne è figlio del nostro tempo, e non solo non c'è stato prima di allora, ma non è scontato, cioè domani potrebbe essere diverso. Oggi le persone migranti, uso questa locuzione un po' rugginosa per evitare di articolare sempre il migrante al maschile, ma per evitare anche escursioni in terreni che ci complicherebbero la parlata, nel loro muovere i passi lungo questi sentieri non sono degli ospiti, sono il soggetto, il protagonista che sta trasformando da capo il senso che hanno questi luoghi, e quindi stanno risignificando i sentieri. Quei sentieri che propongo, di cui c'è la scheda gita, perché comunque il libro è un invito, una call to action, per dirla, visto che io vengo da Milano, usiamo questi linguaggi, noi che parliamo inglese, è un invito all'azione, ma non necessariamente un'azione di carattere collettivo, è proprio a dire, proviamo a farli, a percorrerli questi itinerari, a farlo con uno sguardo diverso da quello che avremmo, e con la consapevolezza che con la stessa dignità con cui qualcuno di noi nel tempo libero, per piacere, attraversa questo spazio, in maniera almeno altrettanto protagonista, questo stesso luogo è attraversato da qualcuno che ha uno sguardo, motivazioni, corre rischi e ha dei desideri, delle speranze, e ha un goal che è molto diverso. E quindi non è un ospite inatteso di uno spazio fatto a misura di turisti, è il soggetto che avanza e che si sta misurando nuovamente col territorio, all'interno però di uno scacchiere che per lei e per lui è profondamente diverso. All'interno di questa lettura, quindi, diciamo, c'è una prima sezione dedicata appunto all'inquadramento del processo di integrazione europea, le sue fasi, una roba anche un po' pallosina, però utile in qualche misura a individuare delle fasi e anche a individuare quello che è il ruolo di interporto della penisola, dello stivale, dentro questo gioco, su cui effettivamente, perché una cosa c'è da dire, è vero, i paesi dell'Europa mediterranea subiscono, quantomeno nel discorso pubblico, un peso dell'accoglienza migratoria ulteriore rispetto a un protagonismo che per esempio alcuni paesi del nord Europa, accogliendo, penso in particolare alla relazione con gli esuli siriani, si sono ritagliati, la Svezia, la Germania, sono tutte cose ultra, ultra note alle cronache negli ultimi anni. Però appunto il confine italiano era assolutamente peculiare, perché se noi guardiamo non al fatto migratorio come fatto totale, lo sguardo lo tagliamo, come dire, su quello che un po' ci riguarda più da vicino, c'erano, perché poi le cose cambiano continuamente, c'erano tre rotte migratorie principali: quella la più pericolosa, quella del Mediterraneo centrale, se proviamo a contarci oggi, è quella che taglia si stima una vita ogni 14, fate i conti su quanti siamo e toglietene 4, toglietene 5. C'è quella iberica, che a sua volta ha però dei rivoli diversi, da Ceuta e Melilla verso per esempio le coste spagnole, ma anche appunto in direzione delle Canarie, su cui c'è una situazione estremamente complessa e molto poco raccontata per esempio dalle nostre parti, e poi chiaramente la crosta, diciamo, rocciosa dei Balcani, cui oggi si aggiungono tanti altri rivoli e per ciascuno di questi tanti altri muri. Non torno su temi che sono stati già chiaramente citati precedentemente, che poi riprenderà Michele, però è curioso che dalla caduta del muro di Berlino ad oggi siano molti più i muri che sono stati eretti di quelli che sono stati abbattuti, e siano estremamente innovative le forme che hanno questi muri, perché tante delle crisi migratorie sono in realtà, come segnalavamo in apertura, crisi squisitamente politiche, in cui la condizione migrante è uno, come dire, degli asset che si giocano all'interno di un confronto di esternalizzazione dei confini e di richiesta invece di aiuti e finanziamenti. Sono utilizzati come carta di ricatto, in completo dispregio della vita e della sua dignità, ma anche la forma del confine è assolutamente interessante per capire chi siamo oggi. Vi cito un paio di esempi. Al di là dei muri, secondo me ci sono tre esempi interessanti con cui l'Europa si confronta. Non parliamo del Messico, non parliamo di altri luoghi. Il primo è quello del Brennero. Al Brennero è stata eretta dagli austriaci una rete antisommossa, che è un dispositivo, è un confine mobile, cioè una barriera di 300 metri, per chi fosse capitato di non entrare in Valdivizze ma di andare dritti fino al Brennero, quando si va in montagna, bypassando tutti i musei di Messner. Quando si arriva al Brennero la valle è larga 200-300 metri. Gli austriaci hanno progettato e costruito una barriera mobile che si può allestire in 10-12 ore, e antisommossa, cioè che serve in caso di pressione migratoria forte al confine, di masse umane che arrivano, di allestire in mezza giornata una barriera fisica che sia da supporto all'esercito per contenere la pressione migratoria. Quindi i muri funzionano non soltanto quando vengono fotografati, ma anche quando vengono invisibilizzati, ma si è consapevoli della propria esistenza. Un altro è un caso che c'è dappertutto, ma in particolare ce n'è uno dietro casa, quindi dal Canton Ticino ogni sera parte un drone, è un drone militare, diciamo, che ha la lunghezza di questo tavolo, più o meno, 2,5 metri, 3 metri, che affronta tutto il parco Monte dei Fiori, diciamo che va da Como a Varese, per farla semplice, da Chiasso a Varese, con delle camere termiche. Il drone vola alto, è silenzioso, non lo vedi, non lo senti, ma riesce a riconoscere, le sue camere riescono a riconoscere il passo degli ungulati, cerbiatti, caprioli e altre amenità, dal passo incerto dei bipedi senza pista. Chi sono? Sono quelli che hanno tentato diverse volte la rotta e hanno subito dei respingimenti, magari dentro convogli ferroviari piuttosto che ai valichi maggiori, e quindi in caso di, o anche i valichi minori, che non sono presidiati ma talvolta lo sono, in caso di controlli vengono lasciati con una cartina o comunque delle indicazioni di massima e recuperati dall'altro lato del confine. E di notte, appunto, il confine invisibile sorveglia, diciamo così, la patria elvetica dall'ingresso. Il terzo, ed è forse l'esempio più recente almeno come applicazione in ambito non immediatamente militare, ma insomma i toni sono quelli, è invece il muro di suono, quello che tanti di noi hanno conosciuto in maniera piacevole in occasione di Technival della peggior specie, ma proprio per questo voi saprete, perché vi sarà capitato di tornare col fischio nell'orecchio per diverse ore della notte, che sopra i 120-130 decibel anche, come dire, il basso più sofisticato si trasforma in un rumore che comincia a dar fastidio. Sopra i 150 decibel subentra il dolore fisico. Sopra la soglia dei 200 decibel siamo nell'ambito delle esplosioni, delle deflagrazioni, delle bombe o del botto che fa un aereo supersonico. Insomma, siamo in ambiti, diciamo, speciali, ecco, che sono distanti dalla nostra esperienza di vita. Tra le altre cose, lungo, proprio nella parte della rotta balcanica che ci interessa, quindi tra la Croazia e la Slovenia, si stanno sperimentando dei dispositivi che anche negli Stati Uniti sono stati testati in occasione di alcune sommosse, proteste di piazza, che sono delle casse acustiche fatte appositamente per lanciare un monotono da 200 rotti decibel, che sostanzialmente supera la soglia del dolore e crea non soltanto l'impossibilità a proseguire, il doversi proteggere dalla barriera di suono, ma produce anche disorientamento, può produrre vomito, insomma crea una situazione di panico che assomiglia molto alle torture con cui gli eserciti occidentali hanno per tanti anni sperimentato, insomma, l'efficacia di questi strumenti quando andavano in visita, per esempio, in Medio Oriente. E tutto questo non per lasciarvi adesso devastati da questa prima parte, che poi adesso chiuderei anche, ma per dirvi che tra i tanti, dei tanti, delle decine di muri che sono oggi in costruzione nel mondo, una bella porzione di questi si affaccia sull'Europa geografica, quantomeno se non politica, Ce ne sono tanti altri non conteggiati perché in fase laboratoriale assumono delle forme, una morfologia diversa da quella della barriera che ci aspettiamo, ma hanno la stessa inefficacia nel controllare o nel bloccare i flussi, e proprio per questo rivelano invece che, appunto, che il significato del confine non è quello di regolare i flussi, ma è quello di preparare a una condizione di sfruttamento, respingimento e parziale accoglienza. Un'ultimissima cosa e poi passo, e se volete approfondiamo su qualcos'altro più avanti, se avete pazienza. Alcuni trick che il libro suggerisce, uno l'abbiamo anche reso un po' così, ci abbiamo un po' lavorato collettivamente e ha portato a una campagna che, dal titolo Coperte termiche solidali. Questo per dire che lì in fondo c'è un banchetto dove trovate alcuni dei libri che ho scritto, ma trovate anche qualche compagna di Ape Bologna con le coperte termiche. Le coperte termiche sono le metalline, sono dei fogli di alluminio tipo Domopack, che nelle prestigiose boutique francesi dal logo azzurro di articoli sportivi costano 3 euro, ma che acquistate all'ingrosso a un terzo del costo. Noi abbiamo pensato di proporre sui banchetti delle attività di Ape, insomma nelle occasioni in cui ce l'abbiamo, perché la coperta termica è un salvavita, protegge a due lati, uno argentato e uno dorato, sono uno dei simboli, degli emblemi del soccorso in mare e del soccorso in quota, in territorio alpino. Sono un gadget che qualunque escursionista della domenica dovrebbe avere sempre nello zaino per proteggersi da colpi di calore o momenti di freddo, ma sono anche, per usare un termine del lessico contemporaneo, un dispositivo di protezione individuale, cioè sono uno strumento salvavita per quanti, come dire, in condizioni diverse stanno in questo momento, quando noi ci scocciamo perché entriamo al bagno con i piedi bagnati e ci sembra di passare una serata da incubo, stanno invece attraversando l'arco alpino. E insomma, in sostanza, ne abbiamo comprate 1500, 1000 le abbiamo subito spedite a Valsuso Oltre Confine, che è un bel network che tiene dentro tante compagnie TAV, Valdesi e un sacco di altra gente nella zona di Ulz, quindi siamo in Alta Valsusa, e loro in partnership con il Refugio Solidaire di Brianson e altre realtà locali, insieme a scarponi, istruzioni e tante volte anche a disincentivi, cioè anche aiutare sta anche nella capacità a volte di dire no, che oggi non è il giorno giusto, non è la notte giusta. 1000 le abbiamo date a loro, che le regalano a chi ne ha bisogno, e con le 500 che vendiamo agli italiani, cioè noi, riusciamo a rientrare dei costi senza tirarci su un euro di più, ma ciascuna coperta è accompagnata appunto da un volantino che dice: non importa che tu sia appunto la militante stellata che si occupa solo di questo a testa bassa notte e giorno, importa che questi luoghi continui ad attraversarli, talvolta magari portando via qualche traccia di troppo, perché a volte anche disinnescare qualche incendio può far bene, laddove insomma su questo vengono costruiti delle retoriche del decoro insopportabili. Importa attraversarli, farlo in maniera consapevole, a volte dando una mano e anche senza esporsi eccessivamente. Questa mano si può dare, quello di 20 miglia è un esempio, che e nel libro ne trovate altri, ma soprattutto magari facendo una roba utile per te puoi fare due cose utili per qualcun altro. E oggi viviamo in un momento in cui, nonostante lo spazio, anche quello del Mediterraneo marittimo, sia costantemente il soccorso, specialmente quello diciamo autogestionario, messo continuamente a repentaglio dai continui blocchi delle navi delle ONG che operano, le polemiche su push e pull factor, e ciascuno di noi può fare una parte piuttosto importante per comprendere, da osservatori partecipanti, ma anche insomma in maniera molto operativa con dei piccolissimi gesti. Questa campagna poi ha preso anche altre vie, abbiamo fatto una raccolta di abbigliamenti indumenti per la rotta balcanica, che non più di un mese fa è arrivata proprio a Trieste, dove pure io sono stato 2 settimane fa nel Carso. Peraltro negli ultimissimi giorni Lorena e altre persone che erano inquisite proprio a Trieste per il loro ormai ventennale impegno sono state scagionate, che comunque è una roba che va salutata sempre col giusto entusiasmo. E su questo io passo la parola, e insomma spero che si sia capito che non è un invito a stare nel refrain del pippone lamentoso, vittimista e un po' tristone della sinistra radicale scocciata dal fatto che non riusciamo a fare la differenza. Cioè, questo è un momento in cui si passa all'azione e con piccoli gesti si può fare una sana differenza tra la vita e la morte, tra l'accoglienza e il respingimento, tra la frustrazione e invece il conflitto, che è una roba piuttosto sana. Grazie a tutti. Grazie mille. Vai tu direttamente o vuoi? Allora, mi associo intanto ai ringraziamenti che ha fatto Avo, anche Annalisa che fortunatamente ha anche controbilanciato questo palco tutto al maschile. Io faccio solo una breve incursione su una di quelle frontiere che abbiamo citato prima, la frontiera esterna all'Unione Europea, quella fra la Bosnia e la Croazia, che fino all'anno scorso, insomma, se ne parlava a gennaio dell'anno scorso, sembrava l'unica frontiera al mondo, con un bombardamento e una bolla mediatica gigante, e adesso neanche la neve ha fatto tornare a parlare di Bosnia, visto che comunque sta nevicando in Bosnia da un paio di settimane. La situazione è quella un po' accennava Annalisa, è uguale esattamente all'anno scorso, con un po' di dinamiche diverse interne, ovvero si cerca sempre di invisibilizzare anche lì la componente migrante all'interno di quei territori, che comunque stanno ridisegnando, vuoi o non vuoi, delle geografie all'interno dell'Unione Europea e all'interno dei posti di frontiera. Posti come Biaccio, Bellica, Kladuscia, nessuno di noi avrebbe mai sentito parlare. Ora, per chi si occupa di frontiere, sono nomi familiari, sono dei posti in cui nessuno di noi mai andrebbe nella vita, probabilmente, forse sì, a Biaccio, a Velika per il Parco Nazionale di Lunasana. C'è la grossa novità quest'anno, che hanno inaugurato in Pompa Magna il nuovo campo di Lipa, che è esattamente la stessa merda dell'anno scorso, solamente che ci sono dei container nuovi. Continua a essere un campo a 30 km dalla città più vicina, che è appunto Biaccio, in cui nessuna persona migrante, o meglio, la gran parte delle persone che abbiamo incontrato insieme a Valerio Muscella, con cui stiamo facendo questo lavoro in Bosnia da un po' di anni, vuole andare, per il discorso anche che dicevamo prima, no? Della disciplina, dell'incasellamento, del sentirsi sempre un po' in debito con qualcuno che ti dà da mangiare, ti regola i tempi della vita, eccetera. Le persone semplicemente vogliono libertà, e la loro libertà la trovano molto spesso in una jungle, in un accampamento informale come quello che c'era l'anno scorso a Velika, come quello che c'era quest'anno a Velika, che hanno sgomberato giusto il giorno della visita dei nostri europarlamentari italiani, che molto spesso non si rendono conto anche dell'impatto che hanno semplici visite, che magari vengono fatte anche con buoni propositi, ma che sanno che una loro visita significa ruspe all'interno del campamento informale. Da Biaccio, per esempio, la geografia è cambiata nuovamente, tutti i grandi squat che c'erano non ci sono più, sono stati sgomberati dalla polizia, vengono piantonati per come possano piantonare i bosniaci, quindi un po' così, però comunque non ci sono persone che ci vivono, quindi sono luoghi in cui non solo davano un tetto, ma facevano anche un po' comunità, in cui le persone non si sentivano sole e c'era comunque un modo di ricreare un tessuto sociale da persone che tendenzialmente viaggiano sole o comunque si ritrovano sole durante il cammino. La situazione quest'anno di Velika, dove è un po' più presente il flusso, noi siamo stati a fine ottobre, già adesso è cambiato perché molte persone sono andate a Sarajevo per passare l'inverno, perché è molto difficile attraversare il confine adesso. Quest'anno con Valerio abbiamo lavorato molto sul tema della salute mentale, che è un tema molto poco narrato, banalmente anche nella nostra società, quindi di riflesso assolutamente anche nella popolazione migrante, o quando si parla di migrazioni molto spesso è un tema che non si affronta, molto difficile per noi, sia da un punto di vista umano ma anche da un punto di vista fotografico, perché è una cosa molto difficile da, da fotografare, diciamo. Anche la composizione è cambiata molto quest'anno in Bosnia, ci sono tantissime famiglie in più rispetto agli anni passati, moltissimi afghani che sono gli afghani che non ci piacciono, ovvero quelli prima di Ferragosto, quelli che abbiamo sempre respinto e che continuiamo a respingere, non sono quelli dei corridoi umanitari, non sono quelli che, insomma, fanno un po', che ci fanno un po' più di simpatia, però sono le stesse persone ovviamente scappate dalla violenza talebana, dalle minacce talebane, moltissime Hazara, e quindi abbiamo faccio scorrere brevemente un po' di immagini. Abbiamo lavorato molto spesso su dei dittici, cercando di appunto rappresentare questa cosa, questo tema qua, che è un tema, non, cioè, lo faccio vedere non tanto per far vedere che foto abbiamo fatto, ma anche per affrontare un tema che noi in primis abbiamo affrontato quest'anno e che fino agli anni passati non avevamo mai affrontato. Quello che ovviamente caratterizza la frontiera bosniaca, è che, cioè, o meglio la Bosnia, è che è un paese in cui vengono catapultate ogni volta migliaia di persone, anche se vengono fermate a Trieste, vengono respinte a Trieste, anche se a Trieste si dice non si respinge, ma si respinge assolutamente. O perlomeno le persone che vengono trovate appunto a piedi, che percorrono i sentieri che ha fatto Abo, vengono poi respinti in Slovenia, poi dalla Slovenia a Croazia e poi dalla Croazia alla Bosnia. Questa catena di respingimenti ovviamente è fatta di violenze, è fatta le manganelle della polizia croata, ma anche di quella slovena e, insomma, tendenzialmente immagino anche delle altre. Questo ovviamente provoca una, non solo una violenza fisica ma anche mentale. Sono persone, quest'anno abbiamo incontrato le persone, hanno provato più di 100 volte il tentativo di passare, ovvero il famoso game. Persone sono 5 anni in Bosnia e quindi ovviamente con delle ripercussioni a livello psicofisico molto, molto, molto rilevanti. Quello che appunto emerge dalle storie che abbiamo raccolto è anche molto, in alcuni casi anche positive, no? Che questa cosa qua gli ha fatto tirar fuori una forza che poi ovviamente cercano di collettivizzare, perché vedono, no, quello che significa andare giù, e andare giù in quella situazione significa tendenzialmente morire, non fisicamente ma psicologicamente. Quindi anche quello che è appunto un rischio nel trattare questo argomento è di patologizzare nuovamente le persone migranti, ovvero già sono migranti, già hanno uno stigma, se poi il rischio è di dare il secondo stigma e dire ah vabbè, però questi hanno problemi anche di mente, no? Cioè, come tendenzialmente rischiamo molto spesso di banalizzare noi anche temi sulla salute mentale. Quindi abbiamo, ma non perché abbiamo scelto, ma perché abbiamo trovato anche storie molto forti a livello positivo, anche di reazione molto positive, anche perché la violenza che subiscono lungo i confini va semplicemente a risvegliare la violenza che hanno subito molto, molto spesso dai luoghi d'origine, che sia familiare, che sia appunto in Afghanistan dalle milizie talebane, che sia appunto violenza governativa, come molti rifugiati che si possono definire rifugiati politici, ovvero scappati perché facevano attivismo, erano impegnati insomma nei loro paesi. E questo insomma è stato un tentativo quest'anno di cercare anche di raccontare in maniera un po' diversa, che fuoriuscisse anche un po' dalla cronaca, anche rispetto all'anno scorso, in cui la cronaca ci ha travolto tendenzialmente con l'IPA, con tutti che parlavano di Bosnia con un certo taglio, così come Abo ha cercato anche di raccontarlo da un certo punto di vista, crediamo anche con Vale sia importante provare a raccontare un fenomeno migratorio anche utilizzando nuovi punti di vista, ma noi, in primis mettendoci noi un po' in gioco e cambiando noi il nostro punto di vista e le nostre abitudini con cui siamo, gli stessi occhi con cui siamo abituati a vedere certi fenomeni. Per il resto, come dicevo prima, la frontiera bosniaca ha le stesse identiche dinamiche degli anni scorsi. Noi dal 2019 ci andiamo, le cose che ti raccontano le persone sono mantra che si ripetono ogni anno. Adesso, per esempio, è in calo un po' la violenza della polizia croata, semplicemente perché è uscita l'inchiesta che si vedono e li manganellano. Tra pochi mesi probabilmente riprenderà come è sempre stato. Tutti ti raccontano la stessa cosa, per cui alle frontiere molto spesso non ti respingono alla frontiera bosniaca, non ti respingono alla frontiera, magari riesci a passare, riesci a camminare 2 o 3 giorni in Croazia verso la Slovenia, ti fermano, ti riportano in frontiera, poi fanno queste buche giganti lungo la frontiera in cui buttano tutti gli zaini, tutti i vestiti, spesso quando li nudano gli danno fuoco e poi ti rimandano in Bosnia, e così poi ti devi rifare un po' tutta la trafila. In alcuni casi è incredibile come ci sia anche un po' dell'ironia, no? Nel senso, molte persone hanno provato 80-90 volte quando trovano la polizia, che ormai li conoscono, si chiamano per nome, gli dicono deport, e loro dicono deport, e girano il culo e vanno via. Quindi è proprio una situazione assurda che è ovviamente vergognosa, a volte è comica, per come cercano anche di raccontarla. Molto spesso le famiglie che viaggiano bambini piccoli la buttano sempre sul gioco, no? Cioè gli dicono che comunque è tutto uno scherzo e che stanno giocando e che, insomma, cercano di mettere su una dimensione di scherzo, di relazioni, perché comunque cioè gli effetti che hanno soprattutto sulle persone un po' più piccole è abbastanza forte, no? Cioè sono ragazzi che hanno smesso di parlare, ragazzi che hanno incubi. Non è una questione di così allora proviamo maggiore empatia, ma è semplicemente un argomento da tenere spesso in considerazione, è un tema su cui porci maggiormente attenzione, anche appunto dal nostro punto di vista, dal nostro punto di vista come fotografi e come narratori, cercando anche di, quando racconti un tema, cercare di farlo con un accento su una certa tematica. Perché questa tematica esiste e far finta di niente è un errore, per cui insomma questo è più o meno quello che quest'anno abbiamo visto e su cui abbiamo lavorato. Tutto il resto, come dicevo prima, è esattamente la stessa dinamica, che quest'anno non se ne parla, non si parla neanche più tra l'altro di Polonia, quindi un po' di tempo fa, un paio di settimane fa, ho avuto la possibilità di incontrare un po' di ragazzi e ragazze super giovani, 15-20 anni, che tra l'altro mi ha sconvolto il fatto che nessuno di loro si informa attraverso giornali, né online né carta stampata. Sono persone completamente informate in maniera molto molto approfondita, ma non traggono informazioni dai nostri, diciamo, mezzi ufficiali, nessuna, cioè zero proprio, totale. E quello, per esempio, che quando gli ho fatto la domanda a quello che vorreste, no, dell'informazione, quello che dicevano, no, un'informazione più puntuale, no, informazione flash, per cui diceva una ragazza, io voglio sapere, prima si parla di Palestina, non si parla più, voglio continuare a sapere cosa succede in Palestina o cosa succede in Bosnia. È un po' quello che dovremmo anche cercare di fare noi, sempre tenere un po' una tensione abbastanza alta sia sui temi, ma soprattutto sulle storie, che ovviamente non dobbiamo seguire, non dobbiamo, diciamo, farci guidare dal mainstream, ma tenere sempre la tensione alta aiuta anche a prendere parte, fare azioni e cercare, insomma, di invertire un po' le rotte. Michele, per averci detto qualcosa di ulteriore sulla Bosnia, passiamo la parola a Mario, che ci racconta di una forma di, diciamo, di iniziativa di azione concreta che sta prendendo piede, di cui abbiamo iniziato a parlare prima, che abbiamo città, la cena di cui abbiamo accennato prima, che è partita l'anno scorso, diciamo un canale diretto di solidarietà tra Bologna e la Bosnia. Grazie. Grazie. Forse non va. Mi sentite? Ciao. Ciao a tutti, tutte e tutto, e grazie per averci invitato. Io appunto sono Mario di Avasta Bologna e oggi colgo l'occasione anche di portare un po' la voce anche del laboratorio di salute popolare, anche se non ne faccio direttamente parte, non essendo io un sanitario, però queste sono un po' le due realtà dei centri sociali, la BITPO, con cui abbiamo costruito il progetto Burn quest'estate, che appunto è stato in Bosnia, con cui insieme a Anonymous Kitchen costruiremo un nuovo progetto per gennaio e febbraio. E, appunto, questa estate, nell'estate del 2021, da luglio a settembre, siamo stati in Bosnia, a Bija, c'è Velika Kladuša, ne abbiamo parlato durante questa serata, proprio in un contesto un po' particolare. Era un contesto nel quale stavano arrivando i milioni di finanziamento da parte dell'Europa, no? In quelle che sono le politiche di esternalizzazione, e questi milioni hanno avuto, diciamo, una concretizzazione in quel territorio. Da una parte la ricostruzione di Lipa. Noi, mentre eravamo a Bija, cioè quest'estate, Lipa, un campo che è stato chiamato campo d'accoglienza, campo di accoglienza transitoria, ma in realtà è un campo di confinamento. Lipa, che aveva preso fuoco lo scorso inverno, diciamo, adesso sta venendo ricostruito ed è stato rinaugurato, prima Michele ne parlava, quindi in ricostruzione, contemporaneamente una grossissima campagna di sgomberi di tutti i centri diciamo centri autogestiti dei migranti che vivevano appunto attorno al centro cittadino. Quindi continui sgomberi giorno dopo giorno dentro il centro cittadino di Bihać e nei suoi confini. E questo l'abbiamo visto anche con vere e proprie retate nei parchi pubblici di Bihać, dove c'erano più di 100 persone che scappavano dalla polizia bosniaca, che cercava di raggiungerli per bloccarli e portarli a Lipa. Questo è stato un po' il contesto che abbiamo visto quest'estate, e quindi un contesto di criminalizzazione molto forte, no? delle persone in movimento. Noi abbiamo provato a portare un aiuto e abbiamo provato a costruire un progetto chiaramente al basso, però che si focalizzasse sul tema igienico-sanitario. Prima Michele parlava della questione della salute mentale, che è sicuramente una questione molto importante, ma diciamo lo strago un po' a tutto il tema della salute, no? Ne abbiamo parlato tanto negli ultimi anni con il Covid, ed è chiaro che c'è un diritto alla salute anche per le persone che sono in movimento. E noi abbiamo provato un po' a portare il nostro contributo dagli ultimi arrivati. Ci sono realtà come appunto Anonymous Kitchen che lavorano in quei luoghi da più anni di noi, però provando a portare un aiuto particolare su questo tema. E diciamo, per noi un po' la pratica sanitaria è sicuramente in primis una pratica di supporto alle persone in movimento, è una pratica a servizio loro ed è una pratica politica. È una pratica medicare un piede, fare una medicazione, dare un antidolorifico, curare una persona, permette a quella persona di attraversare la frontiera più velocemente. È questo il nostro l'approccio con cui noi portiamo il supporto sanitario. Se una persona ha i piedi che stanno bene, scappa più velocemente dalla polizia croata. Se una persona in quel momento sente meno il dolore, può andare più veloce nei boschi e raggiungere il prima possibile l'Europa occidentale. Ecco, con questo approccio noi abbiamo portato, diciamo, abbiamo cercato di costruire il nostro progetto e lo porteremo nei prossimi mesi. Sicuramente, appunto, e poi mi viene da dire anche un'altra cosa, prendersi cura delle persone, anche sedersi, no? A fianco a loro, ascoltarle, credere, no? Nell'inferno che ti raccontano, perché la Bosnia è un inferno, e questa è una pratica fondamentale per costruire prima di tutto un'alleanza con le persone che sono in movimento. Dobbiamo toglierci dall'idea, no, che sono gli attivisti bianchi occidentali i protagonisti di questa storia, ma i veri protagonisti di questa storia è la determinazione e l'ostinazione di queste persone che, nonostante 20, 30, 40 pushback, continuano ad arrivare in Europa e continuano a farcela. perché questa è la vera cosa. Sì, ci sono i morti, sì, ci sono tantissime storie drammatiche, sì, c'è tantissima violenza, ma tante persone riescono ad arrivarci. E quando si ha a che fare con quelle persone là, ecco, la prima cosa che ti viene da dire è: io voglio stare con te, io voglio allearmi con te, perché effettivamente con la tua pratica metti in discussione il regime di frontiera europeo. E quindi questo per noi è anche molto importante. E, le ultime cose, ecco, il nostro nuovo progetto abbiamo presentato l'altro giorno alla BA, abbiamo fatto una giornata di autoformazione, ci sono tantissime disponibilità di tante persone che vogliono venire con noi in Bosnia, siamo molto contenti di questo, e partirà da fine gennaio e proverà a stare fino a giugno. Ecco, è un progetto che un po', da appunto come vi raccontavo, vuole un po' andare anche a aggredire, no, quella che è una crisi umanitaria effettivamente che c'è in Bosnia, ma guardando bene è una crisi umanitaria indotta. I numeri che ci sono in Bosnia, i numeri che ci sono sulla rotta balcanica, non sono dei numeri che creano una situazione talmente disastrosa che per forza ci sono diritti umani che non possono essere garantiti in nessun modo. Non è così. La crisi umanitaria indotta è un fattore di deterrenza. Questa è la strategia europea. Se stai malissimo nei luoghi in cui sei bloccato, il tuo cugino che aspetta di vedere se tu arrivi in Bosnia non partirà dall'Afghanistan, non partirà dal Pakistan. La strategia della deterrenza è uno degli elementi fondamentali dell'esternalizzazione delle frontiere europee, e provare ad aggredirla, no, portando un supporto sanitario, per noi è sicuramente uno dei piccoli passi da fare. L'altro piccolo passo che vorremmo tanto fare è l'altro, no, aspetto della medaglia di quello che si sviluppa alla frontiera bosnico-croata, ma in tutte le frontiere, mi verrebbe da dire, ed è quello dei pushback. Come si fa a opporsi ai pushback? Come si fa a sabotare i pushback in quei boschi? Beh, sicuramente uno strumento utilissimo sono state appunto le inchieste giornalistiche, i video, no, che escono fuori, che denunciano quelle cose là. Ma noi, ecco, questa è una domanda aperta, non abbiamo una risposta, però è questo anche quello che ci muove, ci dice: andiamo là, stiamo là, costruiamo relazioni con le persone in movimento, capiamo il contesto bosniaco, che è difficile, che è diverso dal nostro, che ci sentiamo ancora privi degli strumenti per capirlo fino in fondo, però se siamo là forse possiamo anche dare una risposta alla domanda che facevo, e quindi come andiamo a sabotare il meccanismo dei pushback. E chiudo con le ultime cose, scusate. E prima appunto parlava che dei muri, no? E delle diverse tipologie di muri. Io su questo sono molto d'accordo. E, siamo abituati a pensare alle infrastrutture materiali, no, che impediscono alle persone di attraversare le frontiere. In realtà ci sono sicuramente, però quello che si è visto negli ultimi anni, e il Covid l'ha accelerato anche molto, è che oggi come oggi l'Europa usa sempre di più infrastrutture digitali e tecnologiche per impedire alle persone. Gli esempi che faceva erano molto calzanti, ne aggiungo altri: l'intelligenza artificiale ormai sta venendo sperimentata in diverse frontiere europee. Ci sono dei bot che fanno gli interrogatori, dell'intelligenza artificiale che fanno interrogatori alle persone migranti per capire se stanno dicendo le bugie. Ci sono sensori notturni che inviano i segnali direttamente a delle intelligenze artificiali per permettere di capire se appunto sono animali o non animali, come ci diceva lui prima. Siccome si sono verificati dei casi in cui le persone si bruciano le impronte digitali prima di arrivare alla frontiera, adesso stanno facendo le prove per scannerizzare le vene delle braccia e quindi identificarti tramite quello. I droni, i satelliti, sappiamo benissimo, no, tutto il sistema di Eurodac, ormai è una cosa che c'è da decenni in Europa, quello delle impronte digitali, un sistema che ormai è purtroppo storia dell'Unione Europea, Eurosur, tutto il sistema di sorveglianza attraverso i droni. Il Mediterraneo centrale, ad esempio, giusto per cambiare, è uno dei luoghi più mortiferi al mondo, sicuramente la frontiera più mortifera al mondo, e contemporaneamente è il luogo al mondo più controllato dai satelliti nello spazio. Questa contraddizione è pazzesca, no? perché com'è possibile che con un satellite sullo spazio riesci a vedere la marca di una bottiglietta, ed è questo quello che riescono a fare, che galleggia sul Mediterraneo centrale e non riesci ad accorgerti se ci sono delle persone che annegano. Questa è una faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia è che la tecnologia, dall'altro punto di vista, è lo strumento fondamentale per attraversare le frontiere, per violarle. No, ce le ricordiamo il vecchio motto dei razzisti: ma questi qua c'hanno tutti il telefono in mano? Sì, certo che questi qua c'hanno tutti il telefono in mano. Non attraversi le frontiere senza un telefono, senza un device. Oppure non attraversi una frontiera senza il sistema di money transfer che c'è in questo momento, no? E quindi la capacità anche di passare i soldi da una parte all'altra del mondo molto velocemente, spesso per pagare i trafficanti, certo, ma spesso anche per altri tipi di reti. Oppure ancora TikTok, i social network, la condivisione di informazioni costante e continua, oppure anche tantissime app che ci sono, esistono, di compagni e compagni, che l'hanno fatto i compagni e compagni a servizio dei migranti. Su questo non mi dilungo ovviamente, però l'utilizzo della tecnologia secondo me è centrale oggi per violare il regime di frontiera europeo. Non è solo uno strumento della controparte, ma è uno strumento che ci dobbiamo anche dobbiamo acquisire anche noi. Quindi se c'è qualche informatico, ingegnere, informatico, ecco, magari dopo facciamo due chiacchiere, che è super comodo averla. E no, niente, concludo dicendo: il progetto che stiamo un po' mettendo in campo è un progetto che chiaramente di solidarietà, ma per noi solidarietà e diciamo rivendicazione del diritto di fuga vanno a braccetto, e vanno a braccetto nel momento in cui siamo in grado di portarli in una strada che sia radicale e conflittuale con quello che è il regime di frontiera europeo. Per noi questo è fondamentale, l'alleanza con le persone in movimento è fondamentale, e chiaramente il progetto è aperto alla partecipazione, all'interesse di tutti. Non tutti potremo andare in Bosnia, però ecco, se siete interessati seguite la pagina di Avasto, facciamo delle chiacchiere dopo con una birra. Ok? Grazie. Tanti temi toccati, molto interessanti, importanti, che ci interrogano su tante cose. Prima di chiedere a voi se avete delle domande, visto che Mario lo diceva, e siccome l'anno scorso nell'incontro che facemmo parlando anche di Bosnia a qualche numero lo avevamo dato sulla emergenza indotta, controllavo in questi giorni gli ultimi dati che l'OIM, IOM, insomma l'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Migrazioni, dà sul cantone di Ounassana. Sul 2021 si parla, numeri diciamo questi forniti dal Ministero bosniaco della sicurezza, di 15.000 persone arrivate nel cantone, quindi per l'appunto insomma un paese, la popolazione di un paese medio della provincia italiana. Esatto. E numeri che sono stati più o meno gli stessi nel 2020, circa 16.000, e che invece nel 2019 erano di attorno ai 30.000, nel 2018 24.000, questi dati appunto ufficiali, diciamo, quindi poi che ovviamente non insomma non è un dato e effettivamente precisissimo, ma che comunque dà un'idea abbastanza chiara. Di questa, la composizione delle persone che sono arrivate quest'anno, nel 2021, ci dicono il 75% ancora di uomini adulti, maschi adulti soli, il 10% di adulti dentro il nucleo familiare, l'8% di bambini nel nucleo familiare, e c'è un 6% di minori non accompagnati e dicono un 1% di donne sole. Questo giusto per dare comunque riferimento dei numeri che danno, diciamo, le istituzioni coinvolte nei processi in atto di cui stiamo parlando. Posso aggiungere un solo dato che mi sono dimenticato di ricordare, però è proprio una notizia fresca. E processo di esternalizzazione, politica di esternalizzazione, ce l'hanno fatta la Croazia. Da ieri tutti i ministeri, i ministri dell'interno dell'Unione Europea ha approvato il fatto che la Croazia entri dentro l'area Schengen. ok? Quindi da ieri, ma dentro giugno 2021 ce la faranno. Questo chiaramente è il risultato delle decine di migliaia di respingimenti che la Croazia ha fatto in nome dell'Europa. Ecco, questo secondo me era molto importante, finalmente ce l'hanno fatta, vedremo questa cosa cosa produrrà, però è chiaro che nel momento in cui i respingimenti non sono mai stati così alti rispetto ai numeri, ecco, in quel momento là tutti i ministri degli interni europei dicono va bene, la Croazia adesso ha la stellina per poter entrare dentro l'Unione Europea. Ecco, se ci sono domande, interventi da parte vostra, siamo insomma apriamo una discussione ulteriore, ecco. Se no passiamo all'esame. C'è la seconda parte di Ale. No. Vabbè, se non le fate perché siete timidi, insomma, non va bene. Però senso, se non ci sono altre domande, ci diamo una birretta. Insomma. È inutile star qua a guardarsi su un palco poi. Grazie a tutti. Una domanda, volevi la birra, esatto. Due! Forse non sono stata attenta perché tra il freddo, le coperte e quant'altro, però la domanda era rivolta a Nabo, però anche Michele mi sa che è stato pure lui, perciò chiunque di voi quattro sia stato la frontiera occidentale sulle Alpi. E, cioè, fra l'inverno e l'estate, so che è una domanda stupida, però mi stavo ponendo proprio il problema. C'è un calo di persone o le persone arrivano lo stesso? Insisto, so che sembra una domanda stupida, però ero incuriosita in un minuto di sapere, primo quello e secondo invece. E nonostante io sia in questo momento dietro a queste coperte che mi devo prendere, non sono stata fisicamente nei rifugi autogestiti che ci sono lì in Valsusa, e quindi volevo sapere anche come funzionavano anche a livello di banalmente andarci ad Annamano. Per la prima mi piace se è eccedente. Invece non lo so. Allora, la frontiera tra Clavierum e Ginevro, i numeri, nel senso, diciamo che d'inverno sei tendenzialmente un po' meno visibile, perché comunque essendo più difficile anche l'attraversamento, è più difficile anche per la gendarmeria beccarti. Passano più o meno sempre e tendenzialmente passano tutti e tutte, sono frontiere veloci come quella di Ventimiglia, non è, cioè è comunque una frontiera interna, quindi tra il Claviere e Monginevro in macchina ci metti un minuto e mezzo forse, a piedi è rapida, solamente che ovviamente se la gendarmeria serra i ranghi e tu devi salire sempre di più e quindi aumenta il rischio, perché comunque non so, tutti avevo sospensione nella montagna, neve l'hanno mai vista, o comunque anche se l'hai vista, però comunque non si fa paura. Io ci sono stato e non sono un camminatore, e quando sei di notte lì e non puoi accendere la lampadina e sei in mezzo alla montagna a meno 5, meno 6, insomma non è facile. È tendenzialmente un giochetto strano, per cui la polizia francese basterebbe che facesse un posto di blocco a Brianson in cui legalmente può ancora respingere, ma è no, questa prova di forza per cui fanno le imboscate nascoste negli alberi lungo le montagne, e così poi le persone sono sempre più costrette a prendere sentieri più alto, aumentando ovviamente il rischio di perdersi, andare in ipotermia, eccetera. Però sì, i numeri sono... Sì, poi quelle tra Claviere e Monginevro sono proprio, nella migliore delle ipotesi, sono proprio piste da sci, quindi se il comprensorio è controllato su quella da fondo, si va sulla gialla, la rossa, la nera e dopo la nera c'è la rupe. Quindi diciamo il gioco anche in questo caso, il game è un po' quello. Rispetto all'accoglienza, diciamo che i due versanti, quello italiano e quello francese, sono molto diversi nelle forme della solidarietà. In ambito francese, non soltanto nel dipartimento delle Hautes-Alpes, ma anche per dire anche in tutta quella zona che è dietro il Cunese, l'Alessandrino, eccetera, c'è tanto associazionismo, un profilo in alcuni casi estremamente coraggioso, legato anche a figure individuali, ma con un approccio umanitario molto forte. Poi sono anche i compa, chiaramente. Però storicamente ci sono delle reti di associazioni, nomi un po' li cito anche dentro al libro, piuttosto strutturate, una sorta di civismo come all'italiana non c'è, perché in un paese in cui sono stati storicamente forti i partiti, i sindacati, le cinghie di trasmissione della sinistra, il civismo, come dire, l'approccio umanitario meno immediatamente politico, per noi è una roba catto, no? E quindi invece lì questa cosa è molto forte. E chiaramente quando coinvolge anche delle professionalità, ha portato per esempio a deturnare delle robe, per dire, le ronde per noi sono una parola tabù, perché la ronda, l'immaginario è la lega che andava nelle periferie a caccia di migranti. Lì con alcune, sia con le guide alpine sia con quelli che noi chiamiamo accompagnatori di media montagna eccetera, per esempio specialmente nella stagione rigida organizzano delle ronde notturne, chiaramente dalla loro parte del confine, una volta che l'attraversamento è stato fatto, proprio alla ricerca, diciamo, tra virgolette, di persone che possano aver bisogno di aiuto. Quindi è estremamente strutturato l'aiuto, in parte anche transalpino, nel senso che appunto il rifugio solidale di Brianson, che è uno degli epicentri di questa attivazione, è chiaramente in connessione con gli italiani. Lato italiano invece la questione, esattamente come nei movimenti, è estremamente mutevole e cangiante, e quindi detto adesso è scaduto fra due settimane. Per ridurla proprio all'osso, sicuramente così come sul confine di Ventimiglia ci sono 20K e Quesciania, che sono due delle realtà che negli ultimi anni si sono distinte dai due versanti in maniera, con un approccio collaborativo dal lato del mutuo soccorso, diciamo, autogestionario. Invece in Alta Valle ci sono diverse anime, appunto prima citavo Valsusa Oltre Confine, uno dei network che fa riferimento al Rifugio Fraternità Massi, che è una realtà, diciamo, non istituzionale, cioè che si colloca al di fuori del sistema istituzionale, ma chiaramente, diciamo, se vogliamo un po' più come dire, con il camper di Rainbow, sicuramente più dialogante, che contiene anche componenti che hanno un approccio umanitario non immediatamente militante, ma che ha il contributo per esempio appunto di Valsusa Oltre Confine, dei valdesi, che invece spingono molto, e dei notab, così come fu in occasione anche di altre attività portate avanti, insomma, con un contributo di un movimento maturo come quello notab. C'è anche una componente libertaria anarchica che ha avuto in questi ultimi anni un ruolo peculiare. Il caso più noto è stato quello del rifugio Chez Jesus, in tutte le sue affermazioni, perché in questo caso invece la repressione picchia in maniera abbastanza costante, peraltro complice anche l'approccio molto duro da parte della Chiesa Cattolica locale, che è stata molto severa nei confronti delle occupazioni sia della chiesa, ma in generale, diciamo, ha spinto molto sulla comunità locale, quindi ci sono stati continui sgomberi sia la casa cantoniera, poi la chiesetta, poi le altre sedi. Ormai non si conta il numero di sgomberi che ci sono stati, però chiaramente lì in quel caso l'approccio è molto diverso, di proprio solidarietà dal basso. In alcuni frangenti, in alcune stagioni, queste realtà diverse hanno trovato forme di convergenza, in altri casi invece hanno prevalso le distanze, ci sono state anche polemiche pubbliche. Quello che però la cosa su cui io calcherei, senza entrare, diciamo, a fare un affondo per tenerci su risposte iperbrevi, è che non c'è mai stato un momento sguarnito. Cioè, la cosa importante negli ultimi anni, non sto parlando necessariamente dal 2011 in poi, ma certamente dal 2015 in poi, anche nel, in alta valle, complice tutti questi fattori, una presenza forte di chiese diverse, una presenza forte di un movimento strutturato come quello Notav, una capacità di dialogare con quelli che vengono definiti i cugini d'Oltralpe, un approccio francese molto legato alle professionalità della montagna, insomma tutta questa combinazione di elementi hanno comunque portato in quell'ambito, con le difficoltà che ha quel tipo di ambiente, comunque una capacità unica nella frammentazione e nei momenti invece di coesione, di compattezza. Comunque la valle non è mai sguarnita, trovi sempre qualcuno a cui rivolgerti, e in maniera analoga a quello che succede in città, anche se anche lì ci sono poi ovviamente degli episodi in cui non va così, cioè non resti completamente solo se riesci a guardarti in giro. Chiaramente questa roba qui non è scontata, perché il lavoro di chi, cioè chi fa attivismo sul confine quasi mai abita a Claviere. Claviere è una città, intanto è un paese, non è una città, è un paese stagionale che vive di motociclisti e turismo invernale, qualcosa fa col campi da golf, ma sostanzialmente è un paesino di frontiera che vive di accoglienza alberghiera. Accoglienza alberghiera peraltro in crisi nera, minata dal Covid, dal cambiamento delle località turistiche, tendenzialmente ostile. Esattamente, per chi conosce bene un po' il movimento Notav, funziona in maniera abbastanza speculare: la bassa valle è estremamente coinvolta, partecipe, presente, l'alta valle è estremamente diffidente, ostile e in qualche misura spaventata, impaurita, anche come dire meno preparata all'incontro con i foresti in genere, diciamo. E quindi però non c'è mai stato un momento sguarnito. Chi sta lì spesso, esattamente come a Ventimiglia, come chi sta a Ventimiglia viene da Savona, Imperia, Genova, Bergamo e via discorrendo, chi sta a Claviere viene dalla provincia torinese soprattutto, e qualcuno si fa anche dei bei periodi di sbattimento da più lontano. È importante, come dire, ce la fanno grazie a dei ponti che tanti di noi costruiscono, portando su persone che abbiano la possibilità di farsi un periodo, materiali, attrezzature, conoscenze e tanta capacità di fare traduzione, perché questa è la nostra tara mentale di parlare di migranti, ce li immaginiamo come se tutti inglese, francese, la cosa non è assolutamente così. Il problema più forte con cui ci si scontra è la capacità di comprendersi quando devi dare delle indicazioni di una certa precisione e non intenderti su freddo, caldo, fame, pipì. E su questo ho detto prima. Io volevo fare una domanda che forse vi ponete anche voi un po' tutti i giorni, è come riuscire a sensibilizzare le persone, tutte, quindi soprattutto al di fuori di spazi come questo che sono più facili e amici, diciamo. E, cioè, già un solo fatto, uno fotografando, uno scrivendo libri, chiaramente, però era un po', magari voi vi siete dati le risposte, se puntare di più su l'informazione, sulla solidarietà delle persone che vivono vicino alle frontiere o su proprio un cambiamento delle politiche in generale che... Direi su tutti i fronti possibili, immaginabili, quelli che hai detto te, quelli che non hai detto te, quindi cioè, non c'è un modo solo, cioè, io sicuramente da fotografo non credo proprio di cambiare niente, cioè, al limite cioè, può essere un sassolino per far aumentare un po' più di consapevolezza e poi mettersi a ragionare, però senza che questi sentieri poi li calpesta o che ci va... facendo brigate eccetera o forzando robe, cioè è una domanda che l'anno scorso per esempio quando eravamo in Bosnia ci hanno fatto un botto di gente, ma come posso, sì, cioè, per esempio i vestiti sono utili, però poi c'è la questione politica è dirimente, quindi cioè, è tutto lì, il problema è la frontiera, poi sì, il problema è anche il freddo, il problema è anche il fatto che magari a Ventimiglia non c'è un campo, non c'è neanche più le case occupate perché le sgombrano di continuo, per esempio, però la questione è la frontiera, cioè, il problema è quello, è il problema politico, e quindi da un punto di vista politico ci vuole risposte politiche e mobilitazioni politiche che vadano a minare, cioè, dal piano locale al piano globale in tutti i livelli possibili. Sì, io dico solo che non, come dire, io non cerco di evitare di pormi i problemi che sono al di fuori in questo contesto della, della nostra portata, no? Per esempio, secondo me uno dei lavori più interessanti che vengono fatti, che non è fatto da persone ultra radicali, ma è fatto dall'ASGI, l'Associazione di Studi Giuridici sull'Immigrazione, e, cioè, è gente che fa un lavoro incredibile. Io però di diritto, ho fatto diritto amministrativo, ho preso proprio un 18 rubato durante il mio itinerario di geografo all'università, e non ne sono a mazza, quindi credo che servano un sacco di cose, però poi parto dal mio personale, insomma dal nostro collettivo, e dico io dov'è che riesco a fare la differenza? Per noi, che c'è gente che di solito il weekend, quando prende, che non c'è impegni di movimento, va in montagna. Secondo me il discorso delle coperte termiche, che per chi non legge i libri sarebbe comunque una cosa che si può fare oggi, è perfetto, perché non cerca di veicolarti il messaggio dicendoti sarai più buono se farai con me questa cosa qua, cioè è proprio una roba che a te serve, già quello basterebbe, però intanto ci mette su un carico da 90 dicendo questo stesso oggetto che ne stai dando due, altri due gli stai donando, diciamo così, quello fa invece agli altri fa la differenza tra la vita e la morte, a te produce consapevolezza sperando di non utilizzarla. E quindi, cioè, non so che cosa sia più importante, so che cosa possiamo accollarci noi, e la base d'asta forse va un pochino, si può alzare con semplicità, ecco. Quindi serve un sacco di cose, ricordiamoci che noi abitiamo tutti in città, nessuno è vicinissimo al confine, però si può fare un pezzo. Se fossi un sanitario farei tutt'altro, ma visto che non ci capisco un H, ho fatto un corso di primo soccorso, che già per APE siamo al limite. Ti chiedono, come diceva Michele, un po' secondo me da tutti i fronti, e secondo me anche un po' per quello che riguarda l'attivismo, anche un po' credendoci, mettendosi un po' in discussione. Adesso si faceva la battuta, non sono un sanitario, ecco, il nostro progetto igienico sanitario è fatto da medici, mediche, infermieri e infermiere, studenti specializzanti di medicina e infermieristica, ma anche da persone che non hanno avuto questo profilo. Ci stiamo autoformando, stiamo avendo delle autoformazioni, ci si accompagna tra chi ha studiato e chi non ha studiato. Fare una medicazione molto semplice, curare la scabbia, aiutare una persona a fare una doccia, distribuire dell'acqua con cui lavarsi, lo può fare anche chi non ha studiato medicina. Quindi anche chiaramente parlo di una tipologia di intervento sanitario di base, no? First aid. Però ecco, si può fare tanto, ecco, non serve essere i migliori medici del mondo. Aggiungo solo una postilla: noi a volte abbiamo anche la percezione che anche alcuni appuntamenti che ci diamo non abbiano una coda lunga, un eco adeguata alle attese, alle aspettative. Al Brennero sono state fatte tante manifestazioni, anche in tempi recentissimi meno note, però appuntamenti di movimento negli ultimi anni anche con strascichi legali non indifferenti, in diverse occasioni ci sono stati. Forse quella roba lì, la singola manifestazione, quella coi canotti, quella coi sassi, magari non ha fatto la differenza. Però oggi il tema della Fortezza Europa non è più un tema che sta sui volantini dei centri sociali, è comunque un tema di dibattito pubblico. Cioè, oggi nella stampa, per quanto posizioni no border vengano marginalizzate, si parla del fatto che l'Europa ha un problema con le carte in cui ha vergato straordinarie parole sulla civiltà dell'accoglienza e le carte che non riconosce a chi bussa alle sue porte. Quindi anche da quel punto di vista, come dire, riconoscere anche la capacità di seminare, di come dire, del lavorio che si fa di movimento, io credo che sia comunque importante. Cioè, ci sono tante tappe, diciamo, tante tessere del mosaico che apparentemente non hanno fatto la differenza, non sempre hanno avuto dei numeri importantissimi, eccetera. Oggi però, per esempio, per stare da cittadini, un ottimo modo di lavorare sul confine è quello di comunque di andare a a segnalare un'ostilità nei confronti dei CPR, che comunque sono presenti in quasi tutte le città in forme diverse dalla turco-napolitano degli anni 90, ma sono la manifestazione urbana del confine, e su questo un po' dappertutto ci sono come dire, delle esperienze positive, delle piccole battaglie vinte. Qualcuno è riuscito a portare, per chi ci crede, le commissioni parlamentari all'interno. Sono tante cose che scricchiolano nell'ingranaggio. Bene, se non ci sono altre domande o interventi, chiudiamo qui, ringraziando moltissimo i relatori che sono intervenuti, anche Annalisa che è andata anche già via, che comunque ha dato, c'era. Ha dato un contributo anche lei significativo. E va bene, grazie a tutte e tutti. Trovate il libro Le coperte termiche sul banchetto alla vostra destra. E grazie.